Unilibera presenta Lucciole nelle tenebre. Allora, dato che non sapevano come introdursi, benvenuti in un'altra puntata di Lucciole nelle tenebre. Le vostre incapaci preferite, Flavia e Ilaria. Ciao, io faccio solo l'intro, adesso me ne vado a casa. Ciao, vai a mangiare il risotto alle zucchine. Direi che come inizio c'è male, tanto male là, non sappiamo come nemmeno sempre cominciare una puntata radio. No, io sono pessima, speravo in te invece. Bene, abbiamo davanti una mezz'ora scoppiettante. Comunque, Fla, ma poi sei stata sabato al compleanno di Peppe, perché non sono riuscita a venire? Io sì. E che cosa gli abbiamo regalato che non me l'hanno ancora secondo detto? Secondo te cosa potremmo regalare a Peppe? Gli abbiamo preso il dizionario enciclopedico delle mafie. Non potevamo regalargli di meglio, ma lo sai che io sono stata qualche giorno fa alla presentazione a Palazzo d'Accurso in Piazza Maggiore? Ah sì, e com'è stata? È stata interessante, ma soprattutto ho trovato questo dizionario fantastico. Lo sfogli c'è di tutto e ho trovato delle parole che non avevo mai sentito, come una parola alla lettera A. Sarebbe? La parola archeomafia. Ah sì, ma ne avevamo parlato nella prima puntata sulle ecomafie. Sarebbe una branca di questa categoria, però io non ne so granché. Ma leggimela sta definizione, va? Adesso te la leggo. L'archeomafia: attività delle organizzazioni criminali che operano nel settore dei beni culturali, dedite a scavi archeologici clandestini, furto e traffico di opere d'arte. Il saccheggio archeologico diventa un'occasione unica per riciclare denaro e usare i beni trafugati, come merce di scambio per partite di droghe, armi o mezzo di ricatto nei confronti dello Stato. Insomma, cioè, non si scordano proprio niente questi qui, eh? No, poi sai com'è in Italia. L'Italia è il bel paese, patrimonio dell'UNESCO quasi ad ogni angolo. Fa credo gola, insomma, sì, piatto ricco, mici ficco. Un bel bottino, direi. Sì. Ma io non sapevo che i mafiosi si intendessero d'arte, cioè, non lo so, ma parliamo sempre della stessa roba, colletti bianchi sì, ma pure esperti d'arte. Non sono esperti d'arte, e chi basta sono semplicemente questi soggetti? Lucrarci sopra. Chi sono questi soggetti? Cioè, come fanno allora a capire il valore di un coccio o di una sempre testa? Sempre il dizionario trafugata mi ha insegnato che fra le figure tipiche del traffico di beni culturali ci sono, apri le orecchie, senti un po' e prendi appunti, i tombaroli, che si occupano di produrre, fra virgolette, il pezzo con scavi clandestini, furti e contraffazioni, quindi comunque non soltanto li prendono ma possono pure falsificarli, quindi non sono esperti loro. Fanno. Tipo, sì. Appunta che poi ti chiedo. Ok. I ricettatori e i committenti ricettatori che rivendono il bene a musei, case d'asta e privati. Quindi allora non importa se l'opera è di Picasso piuttosto che, basta che ci lucrano. È ovvio. Fla. Ma quindi quadri, sculture, beni archeologici, sì. Poi? Eppure i francobolli, Fla, i francobolli. Cioè, i francobolli. Cioè, ma non tu collezioni francobolli? Ma che è la cosa più noiosa del mondo? Ah, io c'ho un sacco di amici che collezionano francobolli. Madonna. Che palle. E anche monete. Monete. Per... io al massimo mi ritrovo i 35 centesimi del per il caffè nel portafoglio. E devo dire grazie se ce li ho. E libri sacri, testi religiosi, testi di chiesa, insomma. Insomma, non gli sfugge proprio niente. No, ci vedo, ne sanno una più del diavolo. Anche tu ne sei una più del diavolo, Ilaria Croft. Grazie. Dopo questa siete autorizzati ufficialmente a cambiare stazione. Non me ne vogliono. Stefano è appena tornato per dirci male. Stefano scuote la testa, dice no. E vabbè, ogni tanto le faccio anche io le battute cretine, dai, concedimele. Intanto Flavia fa un minuto di silenzio all'angolo e quindi lanciamo una canzone, la prima canzone della puntata, Viaggio e Miraggi di Gregori. Dentro un miraggio c'è sempre un miraggio da considerare, come del resto alla fine di un viaggio c'è sempre un viaggio da ricominciare. Bella ragazza, begli occhi e bel cuore, bello sguardo da incrociare. Sarebbe bello una sera doverti riaccompagnare, accompagnarti per certi angoli del presente, che fortunatamente diventeranno curve nella memoria. Quando domani ci accorgeremo che non ritorna mai più niente, ma finalmente accetteremo il fatto come una vittoria. Perciò partiamo che il tempo è tutto da bere, e non guardiamo in faccia a nessuno, e nessuno ci guarderà.

la tua Sicilia. E vabbè, basta rimarcare sempre questa cosa che sono siciliana. No, ma non si sente, io lo rimarco perché non si sente. No, non si sente quando parlo. No. Comunque, io volevo parlare di un fatto abbastanza eclatante che si è verificato in quest'ambito, di cui ho sentito parlare un po' di tempo fa, e quella dell'Apollo Sauroctonos, hai presente? Non è presente, vedi che qualcosa lo sai anche tu allora. Eh sì, ma perché praticamente di quest'opera ce ne sono varie copie al Louvre, ai Musei Vaticani. Mm-hmm. Però l'originale è spuntato dal nulla, così, qualche anno fa, al museo di Cleveland, nell'Ohio. Ah, gli americani. Non si sa da dove sia spuntato questa scultura in bronzo, che risale tipo al 300 a.C., più o meno, no? Un'opera molto molto importante, di cui nessuno sapeva nulla. Praticamente dei tizi, non so, di un osservatorio, di qualcosa. L'osservatorio, sì, poi annotatelo, poi ti dirò, ho spulciato anche lì. Hanno denunciato la cosa alle autorità competenti della Grecia, perché evidentemente era stato trafugato in Grecia e portato direttamente in America, ma nessuno se ne è interessato minimamente. Una delle opere più importanti della cultura ellenica. Esatto, forse. Credo. Ok. Prima Sulli. Ma che è sto osservatorio? Allora, essendo pesante, ho fatto anche una ricerca sull'Osservatorio Internazionale delle Archeomafie. Ma quanto sei precisa. Sono proprio diligente. Sì. Proprio da primo, cioè, capito? Da prima della classe, sei una secchia. Sì, sono una secchia. L'Osservatorio è un'organizzazione non governativa senza fine di lucro, formata da un'equipe internazionale di archeologi, storici dell'arte e giuristi, che monitora il fenomeno in ambito nazionale e internazionale, e, come abbiamo già detto, soprattutto in Italia ed in Grecia, che sono i paesi più colpiti da questo fenomeno. Inoltre, in Italia questo, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali italiano, cercando per una volta di tutelare il nostro patrimonio, ha anche firmato delle intese, degli accordi con musei stranieri per riportare alcune opere d'arte e reperti archeologici in Italia. Noi che basti pensare a Bella Gioia. Vabbè, è tutto nostro. Sì, cioè, è tutto nostro. Dovrebbe esserci un museo ad ogni passo. Sì, ma non abbiamo quasi nulla di quello che è nostro. Vabbè, comunque, sta cercando di riportarlo all'interno del nostro paese, però tutto ciò che fino ad adesso hanno fatto è una cifra del tutto insignificante rispetto, vabbè, all'ammontare degli introiti. Io voglio capire perché devono sempre andare a prendere qualsiasi cosa, perché si interessano d'arte, perché sono diventati improvvisamente tutti collezionisti. Perché per le mafie investire in arte è più conveniente, fra virgolette, naturalmente. Perché? Perché le pene previste sono irrisorie, perché è abituato a ben altri pericoli del codice penale. Flavia, tu hai fatto diritto penale, tu dovresti saperle queste cose, ignorante. Gli ascoltatori di Radio Città Fucico sono tutti cazzi miei, che bello. Si tratta inoltre di pene previste molto leggere, che non spaventano chi mercanteggia illegalmente opere d'arte, ed una legislazione, la nostra, che non facilita le indagini. Insomma, noi non tutteliamo. La solita conferma che all'Italia, sì, delle sue bellezze non gliene frega granché, diciamo. Assolutamente niente. A proposito di bellezza, sono stata ad un'iniziativa interessantissima che abbiamo organizzato noi del Presidio Universitario. Ce la cantiamo e ce la suoniamo come di Libera, sì, già. Che si chiama appunto Libera la bellezza, la prima di un ciclo di conferenze sul tema appunto della bellezza come mezzo per sconfiggere le mafie. E a proposito di bellezza, io citerei una guapa che si trova in quel di Salamanca, che salutiamo. Una delle nostre speakers preferite, sì, la salutiamo con una lacrimuccia. Bisa! Solo Portigo, Despierto, La Pegatina. Cae la noche sobre la ciudad, estrellas y luna, me van a pillar, no necesito nada, es real que esta vida es pa' disfrutar, no me gusta la cuenta atrás, pa'lante, tengo que mirar, dejar de rebundar, que todo cuento tiene un final. Despierto, yo me voy, despierto. Al carrer no te'n pots anar. Al carrer és el que queda quan s'ha acabat tot. S'ha acabat tot. És el que tens. És el carrer. Dependència d'un estil oïdor. scatto più difficile. È uno, lo scatto, ecco, di una fotografia che non ho mai mostrata. C'era un bambino di circa 10 anni buttato per terra in un lago di sangue e lui non era colpevole di niente, aveva forse visto qualcosa e lo hanno ammazzato. Ecco, questo bambino dentro un lago di sangue, questo bambino che non vedrà mai il suo futuro, che non avrà mai più studiato, mai più costruito, mai più fatto all'amore, non avrà fatto niente. Ecco, questa è una... è stato uno scatto molto difficile, così come è sempre molto difficile fotografare il dolore di chi rimane dopo che hanno ammazzato qualcuno. Ma insomma non è molto sereno tutto questo, anzi è terribile, segna e rende la vita complicata, difficile. La neonata rubrica Buffier oggi comincia con la voce di Letizia Battaglia. Abbiamo detto che vogliamo parlare d'arte e di cultura e sicuramente la fotografia è la forma d'arte più immediata e fruibile da tutti, no? È perché è visibile, certo. Fotografiamo i fatti e questo è quello che ha fatto Letizia Battaglia, definita la fotoreporter della mafia. Ricordiamo tutti almeno uno dei suoi scatti, non so, il ragazzo con la calza in testa che punta la pistola, ma ne ha fotografate veramente di tante. Sì, figurati che lei ha fotografato l'incontro tra, ebbene sì, Andreotti e gli esattori mafiosi Salvo nell'hotel Zagarella, proprio quegli scatti che poi sono stati acquisiti come atti per il processo. Tuttavia Letizia Battaglia non ha fotografato soltanto la mafia, ha cercato di ritrarre al meglio la sua città, che è Palermo, e la Sicilia, con tutte le sue bellezze. Io per caso l'ho ritrovata come comparsa in un film di Wenders, Palermo Shooting. Non l'ho visto. In cui lei parla con questo fotografo americano, tedesco, che è arrivato appunto dalla Germania per fotografare Palermo. Abilmente mi ricollego a quello che stai dicendo per sponsorizzare anche un po' noi e sponsorizzare soprattutto il nostro workshop, un workshop gratuito tenuto da un fotografo, il fotografo errante Livio Bourbon, ricollegandoci appunto alla nostra iniziativa sulla bellezza di cui abbiamo parlato anche prima. Il progetto di Livio Bourbon si chiama Il paese più bello del mondo. Livio Bourbon vuole fotografare le città attraverso i volti dei suoi abitanti, tramite appunto i volti del personaggio tipico, del vecchietto, la controlla a Bologna. Sì, ma Bologna non l'ha ancora fatto. No, non l'ha ancora fatto, ma sta per farlo il 19 e il 20 ottobre. Infatti, proprio per questo inviterei tutti gli appassionati amanti della fotografia ad iscriversi al nostro workshop gratuito. Potete farlo scrivendo a liberalabellezza@gmail.com. Tre motivi per iscriversi: è gratis, primo motivo importante, poi andremo in giro per Bologna tutti insieme e impareremo qualcosa di nuovo sulla fotografia. Sì, sì. Accompagnati da qualcuno che ne capisce. Ehi, ciao! Ma tu dove sei stato? No! Sì, sono tornato. Pensavate di essere sbarazzati di me. Sentivamo la tua assenza. Questa puntata è stata un po' sottotono. Senza di te. Immaginavo. Comunque sia, sono Secondo qua. Me no. No. Dai, basta. Comunque sia, sono qua per concludere, dato che non siete in grado di concludere. E concludiamo in meglio. E chiudiamo questa puntata con la canzone Graceless dei National. Ciao a tutti da Radio Città Fujiko. Ciao. Try. a sign.